Ciao a tutti, sono Chuck Bird e quest'oggi vi voglio raccontare del primo provino che fece Brian Johnson prima di entrare come componente effettivo negli AC/DC. Come tutti i rocker all'ascolto sanno memoria, gli AC/DC persero il loro primo cantante, il leggendario Bon Scott, il 19 febbraio 1980. Ma la band non si perse d'animo e cercò in Brian Johnson il possibile sostituto. La band lo convocò per una session di prova proprio perché lo stesso Bon Scott parlò a più riprese piuttosto bene di Brian, che all'epoca era cantante dei Jordi. La band aspettò più di un'ora in sala prove l'arrivo di Brian. Ad un certo punto scoprirono che Brian Johnson era da un bel po' nella stanza di sotto a giocare a biliardo con i Roadies. Beh, almeno sa giocare a biliardo, pensarono gli AC/DC. Quando arrivò in sala prove gli chiesero cosa sapeva cantare e lui li sorprese dicendo che i Jordi facevano Ooh Lordy Rosie, quello che si dice partire col piede giusto. Poi fecero una cover di Nat Bush City Limits. Alla fine del pezzo Brian si buttò sul pavimento agitandosi e gridando a più non posso. Non c'era alcun dubbio, lui sarebbe stato il nuovo cantante degli AC/DC. Si è saputo solo più tardi che Brian Johnson si buttò per terra gridando perché aveva avuto un improvviso attacco di appendicite, per il quale dovettero ricoverarlo d'urgenza, naturalmente in ospedale. Come si suol dire, non tutti i mali vengono per nuocere.